E mi hanno detto, che t'hanno detto? E mi hanno detto, che t'hanno detto? E mi hanno detto, t'hanno detto? E mi hanno detto, t'hanno detto? E mi hanno detto che, t'hanno detto? E mi hanno detto che t'hanno detto? E mi hanno detto che. Mi hanno detto che un lavoro non lo posso avere. È una questione di spinta di culo, di sedere. Mi hanno detto di parlare per piacere allo sportello del comune, se collega del. E anche lì ci troverei un raccomandato. E a parcheggiarmi l'auto un mega laureato che ha studiato e studiato fino a non poterne più, per chiamare il dottore un pappone che sta in BMW. E quante cose che ho sentito dal tipo del TG che è diventato un po' il mio mito. Mi hanno detto, evito a Napoli e dintorni. E sì, qui da noi ci spariamo tutti i giorni. Tipo mia zia, che armata di ribotto, alla cassa ha preteso 200 grammi di cotto. O alla pompa di benzina, mi ricordo l'altra sera. Mi hanno minacciato con la pistola della miscela. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, gli occhi e dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi. D'accordo, facciamo pulizia domani. Cominciamo soprattutto dagli italiani, viziati cocainomani che sguazzano nel loro. Sì, però i neri ci rubano il lavoro. E parli proprio tu di lavoro rubato. Ma non la zappi la terra perché ti senti al tuo locato, stronzo. Scusate se ho gridato, prendo il tono, l'ho botonizzato. Colpo l'ho iniziato, sento un tono mezzo rassegnato, misto ad incazzato. Mi hanno detto che esco di galera, pure se ho ammazzato. Mi hanno detto che un giovane normale non segue la politica perché è superficiale. Non fa rivoluzione, facilmente si accontenta. Tra destra e sinistra, dimmi chi ci rappresenta. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, gli occhi e dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, dormi, dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, gli occhi e dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, dormi, dormi. Mi hanno detto, una canzone parla solo d'amore, che una donna non si tocca nemmeno con un fiore. Ma dopo mi hanno detto che certe signore te le scopi solamente se fa il calciatore. Va bene, è meglio che mi ritiri. Io la scuola calcio la mollai ai pulcini. Mollai il salto in alto, lo studio quello vero, per mettermi a fare il rap. Pensa un po' che scemo. E adesso? Che bello il lavoro nero, 12 ore di lavoro e forse ritorno intero. Mi hanno detto, la pensione non è per te. Mi hanno detto, la parola contributi, che cos'è? Oh! Mi hanno detto, stai male, devi restare a guardare, sfogati andando a puttane. Mi hanno detto, stai, mi hanno detto, stai, mi hanno detto, il prezzo del pane e sono svenuto. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, gli occhi e dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, dormi, dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, gli occhi e dormi. Mi hanno detto, non pensare ai sogni. Chiudi gli occhi e dormi, dormi, dormi. Mi hanno detto che non fanno male le gambe blu. Mi hanno detto che la musica si fa da Roma in su. Mi hanno detto che la chiesa non ci pone dei tabù. Mi hanno detto quanto spaccano i pompieri di Vigiù. Mi hanno detto non esistono i cantanti di una volta. Mi hanno detto terrone bastardo figlio di mignotta. Mi hanno detto l'italiano mica pensa alla pagnotta. È pronto a combattere, è pronto per la rivolta. Cazzo, non ridi. Ma perché ridete?